Certo, certo. E poi sapere magari dov'è questo posto dove si trovano le donne che seguono questo decalogo. Ma ovunque, ha sentito, ha chiamato prima un'ascoltatrice, ha detto esattamente quello lì. Lei comunque impone, vorrebbe un radiocomando per avere ancora più facilitate le funzioni preferite. Bene, Natalie, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Lei è d'accordo, sì? Ah, io sono perfettamente d'accordo, a parte che mi sono molto divertita stamattina. Beh, noi siamo qui per farvi divertire, se no qual è il nostro compito? Beh, il tono ironico sotteso è splendido. Però volevo dire questo, io ho negli anni cambiato moltissimo... Spenga la radio gentilmente, Natalie. Sì, ecco. Se no sento un po'. Ho cambiato moltissimo il mio punto di vista negli anni, perché sono figlia di una mamma femminista... che tutto avrebbe fatto tranne portare le ciabatte a mio papà. Ah, che infelicità, pensi. Beh, ha avuto una fanciullezza traumatizzata. Si sta rifacendo adesso. Ma mi sto ricredendo su alcuni errori. Ecco, dia qualche esempio concreto, così facciamo capire a chi ancora non abbia capito, non avesse capito qual è la forma ideale. Lei è un uomo sotto mano. No, vabbè, ho un uomo sotto mano, ho un uomo che lavora e io lavoro, però ho capito chiaramente, perché quando noi ci siamo fidanzati, io e il mio compagno, perché non siamo sposati, io e il mio compagno, lui inizialmente mi aveva un po' illusa portandomi il caffè a letto. Per mamma dire mia, che proprio lo una... so, sono quelle brutte abitudini che poi uno lo fa una volta, magari è un momento che so di debolezza, e poi uno se le trascina dietro per tutta la vita. Bisogna di stare... debolezza di parità, nel senso che il cliché classico è che la moglie porta il caffè, perché avevo detto, certo, vabbè, favoloso, è la norma. Poi è tutto ribaltato. In realtà, quando sono arrivati i bambini, io che lavoro, rientro, devo fare la cena, badare ai bambini appena rientrati, e io faccio un lavoro dove sento continuamente parlare, per cui anch'io avrei bisogno di silenzio la sera, vedo che devo trattenermi, devo appunto sorridere quando arriva, ma devo perché ho imparato, non perché è uno sforzo. Beh, si fa sempre in tempo, guardi, non è mai troppo tardi, come diceva il maestro Manzi. Quindi adesso lei riesce a rendere felice il suo uomo, quando torna lei sorride, la cena è pronta, i bambini zitti, e lui può infilarsi le pantofole, poi chissà perché se questa smania di pantofole, comunque le pantofole a qualcuno piacciono, si infila le pantofole e lei gli porta il vino e tutti contenti, felici, lei lo ascolta. Grazie. Sì. Perfetto, beh, vedete, stiamo capendo che in realtà quello che sembra l'altra faccia della luna è normalmente praticato in tante famiglie italiane, quindi non capisco il perché di questa infelicità dilagante. 800 24 00 24, dopo le informazioni del traffico continueremo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. In November the snow starts to fly. 9. Ascoltalo. Forse tu avrai una dozzina di cose importanti da dirgli, ma il suo rientro non è il momento migliore per parlarne. Lascialo parlare per primo. Ricorda che i suoi temi sono più importanti dei tuoi. 10. Mettiti nei suoi panni. Non ti lamentare se arriva in ritardo, se esce a divertirsi senza te o se rientra in piena notte. Cerca di capire il suo mondo di impegni, di pressioni e di compromessi. 11. Non ti lamentare. Non lo esaurire con i tuoi problemi insignificanti. Qualunque tuo problema è un piccolo dettaglio paragonato a quello che lui ha dovuto affrontare. Una brava moglie sa sempre qual è il suo posto. Tieni una bibita calda pronta per lui. Sistemagli il cuscino e sfilagli le scarpe. Parla sempre con voce dolce e piacevole. Cristina, buongiorno. Io sono qui che rido. Rido e mi piace da morire questa trasmissione. Oh, l'abbiamo fatta felice, ha trovato la sua dimensione. Decisamente ho trovato la mia dimensione. Quello che mi stupisce... Non ci voleva molto, bastava un attimo riflettere su ciò che ci faceva piacere. Ma in effetti, guardi, quello che mi stupisce è che molte signore che hanno chiamato non abbiano percepito l'ironia. Ma perché non provano questa deliziosa maniera di impegnare il proprio tempo femminile? Ma se lo provassero, capirebbero che è l'estasi. Ma certo, è l'estasi che io ho tentato di provare, di far provare a mio marito i primi anni di matrimonio. Mi faccia un esempio, cosa faceva per portarlo all'estasi? Classica colazione con tovaglietta all'americana, tutto pronto, la spremuta. Certo. Quindi bisognava alzarsi almeno un'ora prima di lui, minimo. Assolutamente. Perché doveva anche farsi bella, non è poteva presentarsi lì con l'alito ancora di notte. No. Io ho tentato di fare questa cosa, ero

Esatto, no? E questa cosa un po' si sta perdendo. Oggi, purtroppo credo. Sì. E poi invece va la svelta, stiamo chiudendo. E poi l'altro è la sfera sessuale, in cui diciamo la donna deve capire che deve assecondare tutto. I reconditi. E deve un po', diciamo, essere una sorta di pornodiva con lui. Assolutamente, no? Solo con lui però, solo con lui, certo. Esatto, e questo è il punto. Salvo non fare richieste stanca. Quando lui è stanco, perché può essere che lui sia stanco. Guardi, io la ringrazio, veramente. Ho un grosso problema, mi stanno chiudendo tutti i negozi. Devo fare la spesa e devo mettere su il sugo e mettere l'acqua a bollire per la pasta, perché se non mi sbrigo poi torna mia moglie e si arrabbia. Vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo domani. Melog 2.0. La vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.